Su Radio 24, l'Unità d'Italia si comincia a festeggiare dal 16 marzo con una notte bianca, rossa e verde. Una notte per capire da voi ascoltatori cosa vi fa sentire italiani e scoprire come si celebra la ricorrenza nelle più importanti piazze del nostro paese. Il 17 marzo i festeggiamenti continueranno per tutta la giornata con i ritratti di chi ha contribuito all'Unità d'Italia nella politica, nello sport e nella vita di tutti i giorni. Speciale 150 anni dell'Unità d'Italia, da mercoledì 16 marzo alle 21 su Radio 24.